e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ricomponiamo la coppia. Ieri mi hai lasciato da sola a occuparmi di pancetta, ma ce l'ho fatta. Lo so che ce l'hai fatta molto bene. Ti sono mancata, però. Mi sei mancata tanto, ma mi sono anche divertita tanto, perché devo dire che è stato un tema che ha coinvolto molto gli ascoltatori. Abbiamo avuto il camionista qui, sta crescendo questa pancetta per il lavoro che fa, perché mangia male. Tanti suggerimenti la utili. La pancetta del camionista. Eh sì. Noi torniamo insieme oggi, torniamo al lavoro e torniamo a parlare di lavoro. La settimana scorsa un osservatorio dell'INPS ha messo in luce un dato che ci ha colpito molto: la forte crescita del ricorso ai buoni lavoro con cui si pagano le prestazioni di lavoro occasionali. Nei primi 9 mesi di quest'anno ne sono stati venduti oltre 81,3 milioni di voucher per pagare le prestazioni accessorie, che rispetto ai 48 milioni distribuiti lo scorso anno equivalgono ad un incremento in un anno di quasi il 70%, quindi molti lavoratori vengono pagati con questa modalità. Allora, nella prima parte della puntata parliamo di questi voucher, come funzionano, cercheremo di sondare anche con l'aiuto delle vostre testimonianze in quali situazioni prevalenti vengono utilizzati. 800 24 00 24, raccontateci se negli ultimi mesi avete lavorato e siete stati pagati con questa modalità. Che tipo di lavoro era? Come era organizzato? Potete anche scriverci al 349 238 6666, SMS ed anche WhatsApp. Invece, nella seconda parte della trasmissione parleremo, Deborah, di chi ancora non lavora, ma ci augureriamo che lo possa fare in futuro. Parliamo infatti dei nostri bambini. Lo spunto ce lo offre lo Zecchino d'Oro, che ha fatto il suo debutto proprio ieri sera, una manifestazione, lo sappiamo bene, per bambini, ma che da quasi 60 anni diffonde importanti valori anche nel mondo dei grandi. E quindi soprattutto oggi ne parliamo perché il tema di quest'anno ci è sembrato particolarmente bello e molto vicino alle emozioni che ci hanno travolti in questi giorni, perché lo Zecchino di quest'anno vuole celebrare tutti i colori dell'uguaglianza. Quindi quella di oggi sarà un'occasione per entrare in contatto con il bambino che c'è in ognuno di noi e in questo momento preciso ci aiuta, ma anche per parlare di integrazione e uguaglianza. 800 24 00 24 se volete intervenire e prenotare i vostri interventi. Precare il mondo, flessibile la terra che sta pestando, atipica la notte che sta arrivando. Allora, la settimana scorsa è stato diffuso un importante osservatorio sull'andamento del mercato del lavoro italiano. Noi li guardiamo sempre con grande attenzione. L'osservatorio dell'INPS, che sembra aver fotografato un mercato del lavoro un po' meno precario. Poi naturalmente le considerazioni sull'argomento si sprecano sempre. Le aziende stabilizzano grazie allo strumento del contratto di lavoro a tutele crescenti e poi nei primi 9 mesi di quest'anno si sono registrate poco più di 1.700.000 assunzioni a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni di contratti a termine di apprendisti, a fronte di 1.200.000 cessazioni, con un saldo positivo di 469.000 contratti fissi in più. Come sapete, non vengono poi più sottoscritti i contratti a progetto, ma di contro sono aumentati in modo esponenziale i voucher, i buoni che permettono la somministrazione del lavoro accessorio. Ma quanto ne sappiamo davvero? Come si applica nel concreto una retribuzione con questa modalità e quando può essere applicata, quando invece abbiamo il dubbio che se ne faccia un uso scorretto? Oggi ne parliamo con Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro, esperto del Sole 24 Ore, che salutiamo e ringraziamo per essere finalmente tornato da noi. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Ha sottolineato quel finalmente con un tono un po' polemico. No, no, assolutamente, anzi era proprio di conforto, perché sono molto contenta quando Alessandro... Pensavo che fosse una tirata d'orecchio. Ci dà una mano con questi temi che sono molto importanti, molto delicati. Noi naturalmente invitiamo anche gli ascoltatori a condividere con noi le loro testimonianze. Negli ultimi mesi avete lavorato e siete stati pagati con questa modalità e che tipo di lavoro era, come era organizzato? Raccontatecelo, oltre che al numero verde anche al 349 238 6666. Per mantenerci sull'attualità vi voglio anche segnalare due avvenimenti importanti di questi giorni. Intanto, a Roma fra un'ora circa si tiene una conferenza stampa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Viene illustrata un'iniziativa a sostegno dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità attraverso la costituzione di un fondo dedicato, la cui gestione operativa verrà affidata ad Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa. Quindi conferenza stampa e noi magari ne parliamo nei prossimi giorni. Poi domani a Milano c'è la 22esima edizione della giornata nazionale Orienta Giovani, l'occasione in cui tante imprese incontrano le scuole, e l'edizione 2015 è particolarmente importante perché cade proprio in un periodo di grandi cambiamenti per la scuola italiana dopo la riforma della buona scuola. Allora, andiamo ai nostri voucher, perché se si vanno a cercare informazioni sul sito dell'INPS, la prima immagine che viene descritta è proprio quella che si relaziona al mondo della scuola e si parla di una modalità con cui vengono retribuiti i lavori di quei giovani che svolgono lavoretti durante il periodo scolastico, quindi ripetizioni o babysitting, esatto, oppure durante le vacanze scolastiche. Sono lavori per loro natura definiti occasionali, proprio perché sono caratterizzati dalla breve durata, dalla discontinuità, e in precedenza questi lavori non erano regolati da alcuna forma di contratto fra le parti, quindi non erano tutelati né dal punto di vista assicurativo né da quello previdenziale. Da qualche anno è stato introdotto invece il sistema dei buoni lavori, voucher, un sistema di pagamento che può essere utilizzato in tutte quelle forme di lavoro occasionale discontinuo non regolamentate da contratto di lavoro. Allora, rota porta, a giudicare però dai numeri dai quali siamo partiti, non sono certo più solo gli studenti ad essere retribuiti con questa modalità, no? Ma sappiamo che può essere un modo per pagare collaboratori familiari, lavoratori stagionali e chi altro? Allora, partiamo subito dicendo che negli ultimi anni ci sono state diverse modifiche legislative che hanno caratterizzato la possibilità di utilizzare questi voucher. Quindi nel precedente impianto c'era una sorta di tabella dove bisognava andare a incrociare se il soggetto rientrava tra quelli con i quali si poteva retribuire a voucher, oppure se ci si trovava in una di quelle specie, quindi particolari attività che erano elencate dalla norma e che era consentito l'utilizzo dei voucher. Oggi con l'ultimo intervento legislativo, quello del codice dei contratti, quindi parliamo di un decreto delegato all'impianto complessivo del Jobs Act, la possibilità di utilizzare il voucher è riferita soltanto, trova la sua limitazione soltanto nei termini del compenso massimo che ciascun percettore può fruire attraverso i voucher, che sono 7.000 euro in un anno civile. Quindi ormai l'utilizzo è trasversale, cioè non c'è un settore particolare, solo l'agricoltura diciamo fa storia un po' a sé perché ha una regolamentazione ad hoc, ma in tutti gli altri ambiti, quindi sia in ambito privato sia in caso di un committente che sia un imprenditore o un professionista, il riferimento da tenere in considerazione è solo il parametro del compenso, quindi qualsiasi tipo di attività purché non si superi il compenso erogato tramite voucher. Ricordiamo che per i professionisti e per gli imprenditori nei confronti di un singolo percettore si può dare un massimo, corrispondere a un massimo di 2.000 euro, e nel complesso il prestatore non può superare 7.000 euro in un anno civile. Rispettate queste regole, l'utilizzo è praticamente generalizzato. Lo sa che non ho mai sentito parlare tanto spesso di anno civile? Che cosa si intende con questo concetto, dottor Rotaporta? Un anno lavorativo? Ma qui praticamente diciamo che il chiarimento normativo è importante, perché praticamente si va, cioè quindi finalmente si riesce a trovare una bussola. Su questo punto c'era una diatriba un po' tra Ministero e INPS sull'interpretazione di in quale arco temporale andasse quantificato questo compenso. Adesso praticamente con la precisazione normativa bisogna andare indietro di 12 mesi rispetto a quando si ricorre alla prestazione, quindi l'onere che ha l'utilizzatore, quindi il committente di queste prestazioni, è di verificare che il lavoratore nei 12 mesi precedenti non abbia già sforato a livello personale quel limite di 7.000 euro di compensi percepiti coi voucher, perché viceversa con quella persona non si può retribuire, certo, a voucher. Allora, 800 24 00 24, numero verde per le vostre telefonate. Ci state già scrivendo anche al 349 238 6666. Ci sono proprio degli imprenditori che vogliono avere maggiori informazioni su questa modalità. Ce n'è uno, Giuseppe, che ci scrive, titolare di un SRL nel settore immobiliare e turistico, e quindi insomma come posso sfruttare questa opzione. Nel frattempo È arrivato il momento di dare la linea al traffico. 800 24 00 24, ho prenotato i vostri interventi per parlare con il nostro esperto. A tra poco. Cuore e denari. Ma che razza di lavoro fai? Effettivamente il lavoro retribuito con la modalità del voucher sta incuriosendo molti ascoltatori, perché in tanti ne avevano sentito relativamente parlare. Allora stiamo cercando di capire come funziona, ma a quanto pare sono di più quelli che sanno bene come funzionano, perché a giudicare dai numeri sulle distribuzioni e l'erogazione appunto del voucher che si sono registrati nei primi 9 mesi dell'anno, effettivamente possiamo parlare di un vero e proprio boom. Prestazioni accessorie pagate col voucher per 81,3 milioni di lavoratori. Magari ho fatto un numero un po' esagerato di popolazione italiana. 81,3 milioni di voucher per pagare le prestazioni accessorie. Dottor Rotaporta, come li commenta lei come consulente del lavoro questi dati? Praticamente più 70% rispetto all'anno precedente. Sì, intanto guardi, vi voglio correggere e chiedo scusa agli ascoltatori sul discorso anno civile, perché vede, alla fine cambiando sempre la normativa anche noi addetti ai lavori poi ci confondiamo. No, allora, e io non sono stato in grado neanche di contestarla, perché appunto era Anno civile, adesso sì, quindi ho fatto riferimento al periodo 1 gennaio 31 dicembre, quindi anno civile, ecco. si intende quello, quindi bisogna verificare quei compensi valutando quello che il prestatore ha percepito dal 1 gennaio al 31 dicembre. Allora, tornando alla sua domanda, ma sicuramente, come diceva anche lei adesso, lo strumento è molto conosciuto, cioè quindi ormai è diffuso in modo comune, quindi questo utilizzo, se vogliamo vederla da un certo punto di vista, può anche magari essere questa espansione dell'utilizzo positiva, perché comunque magari sacche di lavoro sommerso emergono grazie a questa possibilità. Poi magari mettiamoci anche il fatto che i cambiamenti normativi su altre tipologie contrattuali, ad esempio negli ultimi anni abbiamo assistito a un restringimento della possibilità di utilizzare il lavoro a chiamata, perché salvo alcuni settori è stato fissato un utilizzo massimo di giornate per il lavoratore a chiamata. Questo potrebbe essere un altro fattore che ha inciso sull'aumento del ricorso ai voucher. Allora, ritornando ai casi pratici, Giuseppe, come le ribadivo prima, ci scrive: mi dicono che i voucher sono meglio del semplice co-co-co. Sono un piccolo imprenditore titolare di una SRL nel settore immobiliare e turistico. Che cosa può fare questo ascoltatore, con che utilizzo, se può fare appunto, del voucher? Allora, l'ascoltatore, se non interpreto male, quindi è un imprenditore, e quindi se vuole avvalersi dell'utilizzo dei voucher, può nei confronti di un prestatore erogare nell'arco quindi di un anno civile nei confronti di quel prestatore un massimo di 2.000 euro di prestazione attraverso i voucher. Poi ripeto, non è necessario andare a individuare connotazioni particolari rispetto all'attività in questione, cioè non è che l'attività deve essere connotata da particolari condizioni o requisiti. Se io voglio avvalermi di una prestazione con i voucher, l'importante è che non vada a superare nei confronti di quella persona, se sono un imprenditore, una corresponsione di più di 2.000 euro. Stop. Poi quindi può usarli. Poi adesso la domanda. Più di 2.000 euro, mi scusi Rotaporta, ritornando alla relazione col famoso anno civile di prima. 2.000 euro in che tempi, in che modalità? Allora, la prima cosa che devo fare, quindi voglio ricorrere ai voucher, la prima cosa, quando di fronte a me il prestatore, devo acquisire da lui una dichiarazione, poi in parte questa situazione è consultabile dal sito IMS, però è meglio acquisire una dichiarazione di responsabilità dove questa persona mi dichiara che nel periodo 1 gennaio, 31 dicembre, dell'anno in cui si vuole utilizzare il voucher non ha già superato il suo limite individuale, che è quello in capo al prestatore, di 7.000 euro di voucher percepiti, perché se ha già superato... Anche da più committenti, da più datori di lavoro. Quello è il limite individuale in capo al prestatore. Perfetto. Quindi se l'ha già raggiunto, io con quella persona non posso continuare a retribuirla con i voucher. Cioè dovrò o utilizzare altre forme, quindi contratti di lavoro subordinato o altri tipi di contratti, oppure mi devo rivolgere a un altro soggetto. Chiarissimo. Se invece no, siamo all'interno di quel limite, io come imprenditore a questa persona potrò corrispondere un massimo di 2.000 euro. Se fossi invece un committente privato potrei dargli addirittura fino a 7.000. se non ne ha già percepiti. Chiaro. Allora, tra l'altro ci segnalano dal centralino che gli ascoltatori fanno fatica con la parola voucher, ci chiedono se si può utilizzare una traduzione in italiano o più che buoni lavoro, per rendere l'argomento più digeribile e comprensibile ai nostri ascoltatori. Allora, un buono lavoro quanto vale, dottor Rotaporta? Fisicamente il datore di lavoro quando mi deve pagare, retribuire, che cosa mi dà in mano? Allora, qui ci sono due modalità diverse di acquisto da parte del committente. Il committente può acquistare i buoni in via cartacea, quindi andando ad esempio al circuito dei tabaccai convenzionati, no, con l'INPS, quindi si va in tabaccheria e si acquista proprio fisicamente un pezzo di carta che è il buono lavoro con una sua matrice identificativa. Esatto. Oppure, ad esempio, questo è il caso degli proprio come se fosse un libretto di assegni? Sono dei talloncini. Ogni talloncino costa a chi lo acquista, quindi al committente, costa 10 euro. Di questi 10 euro, 7,50 vanno in tasca poi al lavoratore. Quindi questa è una modalità. Poi c'è la modalità che riguarda le imprese, che comunque possono anche accedere alla rete, ad esempio dei tabaccai, questo l'ha precisato anche l'INPS, ma possono anche acquistare i voucher, gli imprenditori, i professionisti, in modalità totalmente telematica, quindi col pagamento col modello F24, quindi sostanzialmente. Ci dobbiamo fermare perché c'è il giornale radio, quindi dobbiamo aspettare Maurizio e Luciano, che avevano pronte delle domande. A tra pochissimo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Sto cercando lavoro. Ah, ecco, appena licenziato. Cerco qualcosa di meglio. Lo sai preparare un red eye, signor, come ti chiami? Brian Flanagan, no. Sfortunatamente non ne ho avuto il piacere finora. E che mi dici del vodka martini con una spruzzatina di Pernod? Che apprendo in fretta. Sei nella Upper East Side, la capitale mondiale in fatto di locali, il meglio del meglio. Pensi di potertela cavare, giovane Flanagan? Credo di essere all'altezza. Era Cocktail con Tom Cruise, mi sembra, insomma, film che ha già qualche annetto sulle spalle. Un sempreverde, dai. Esatto, un evergreen. Noi parliamo di lavoro oggi per cercare di spiegare ai nostri ascoltatori come funziona il lavoro che viene remunerato, retribuito con i voucher, i buoni lavoro. E questo perché abbiamo scelto questo argomento questa mattina, perché nei primi 9 mesi di quest'anno ne sono stati distribuiti ben 81,3 milioni, più 70% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo perché? Per tante ragioni, perché non si possono più stipulare contratti di lavoro a progetto, per tante altre modalità, anche se il presidente dell'INPS, Tito Boeri, che peraltro l'INPS è proprio l'autore di questo monitoraggio da cui siamo partiti, ha fatto notare che in realtà è un fenomeno che va monitorato a fondo perché presenta luci ed ombre. Non vorrei, ha detto, insomma, che emerga altro lavoro sommerso dall'utilizzo dei voucher se ci sono prestazioni lavorative dipendenti da un solo committente. Però, come sempre, lo spirito di Cuore e Denari è relativamente entrare nelle polemiche, ma dare un po' l'ABC delle notizie delle quali parliamo. Come funzionano allora questi buoni? 800 24 00 24, ancora qualche minuto di tempo per le vostre domande con noi il nostro consulente del lavoro preferito, che è Alessandro Rataport, esperto anche per il Sole 24 Ore. Allora, abbiamo spiegato quanti ne può utilizzare un lavoratore e anche il committente, quindi il datore di lavoro, come quanto vale un singolo voucher, un valore da 10 euro ciascuno, 7,50 euro costituiscono il compenso ricevuto dal lavoratore, il resto va alla contribuzione previdenziale, no, dottor Rataporta? E le faccio sentire anche la domanda di Fabio da Brescia, che salutiamo. Fabio, benvenuto. Buongiorno, complimenti e un saluto alla conduttrice, al vostro ospite. Grazie. Grazie. Prego. Io volevo chiedere se uno percepisce più voucher da vari datori di lavoro, sì. Innanzitutto la somma di questi voucher, se deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi, e quanto deve arrivare. La seconda domanda che volevo fare mi è scappata, non me la ricordo. Allora, intanto rimanga lì, Fabio. Sì. Intanto rispondiamo a questa prima tranche, sì. Questa prima piccola batteria di domande con Alessandro Rataporta. Allora, questo 7.000 euro di limite annuale, no, dottor Rataporta, che lei ha indicato prima. No, non c'è nessuna incidenza sulla situazione reddituale, quindi non vanno a incidere sul reddito, non vanno dichiarati, il percettore li incassa e non deve fare null'altro. Ci sono solo alcune particolarità per quanto concerne i percettori di prestazioni di sostegno al reddito, che ricordiamo hanno invece un limite più basso, cioè hanno un limite di 3.000 euro di utilizzo massimo di questi buoni nel corso dell'anno civile. E poi qui ci sono delle particolarità, adesso non è la sede per entrare nei tecnicismi, però l'INPS ha proprio dedicato un intervento ad hoc per proprio spiegare le situazioni in cui ci possono essere delle incompatibilità, sì, tra il sussidio e l'utilizzo dei voucher, ma sono dei casi specifici, sennò sul reddito non hanno nessun tipo di incidenza. Quindi lei, visto che mi parlava appunto di prestazioni di sostegno al reddito, Gabriella da Frosinone ci chiede: qual è il tetto di guadagno per chi sta in mobilità? Esiste una relazione fra le due? Qui appunto l'ascoltatrice potrà, se sta percependo l'indennità di mobilità, potrà lavorare con i buoni percependo nel corso dell'anno civile, come l'abbiamo spiegato prima, un massimo di 3.000 euro di compenso. Chiaro. Quindi non può sforare quel limite. C'erano molte belle testimonianze che stanno arrivando da WhatsApp, me le sta monitorando Nicoletta. Allora, ho fatto fare pulizie in appartamento affittato a settimane, pagando di volta in volta. Non posso più ricorrere al voucher, ci chiede Alessandra. Dipende quanto ha remunerato questo lavoratore. Esatto, perché sennò la risposta in teoria è affermativa, cioè si può ricorrere al voucher, peraltro nel caso di utilizzo per il lavoro domestico o per l'assistenza a familiari, quindi l'assistenza diretta a familiari, la quota del voucher che va, diciamo, a servire per la contribuzione può essere anche dedotta, in questo caso dal reddito del committente, quindi di chi eroga questi voucher, quindi è una cosa positiva. Magari ricordiamo soltanto che è molto importante che non basta acquistare il voucher, quindi questo è un adempimento che riguarda il committente, ma questi voucher, utilizzando la matrice che è stampigliata sopra, vanno poi attivati, ecco, sul sito dell'INPS, perché sennò l'acquisto non è sufficiente. Esatto, e non solo, una volta attivati bisogna anche, come dire, consumarli in un determinato periodo di tempo, perché sennò scadono. Ci stanno segnalando molti ascoltatori che hanno praticamente dei blocchetti in casa e non ho capito bene se l'INPS poi restituisce il relativo importo, dottor Rataporta. Ma allora l'acquisto va attivato, e quell'attivazione può coprire un periodo, proprio le maschere web dell'INPS non fanno andare oltre, può coprire un periodo massimo di 30 giorni. Per quanto riguarda la scadenza, quella mi sembra che abbia un periodo più lungo, ed eventualmente, anche se la procedura è un po' complessa, però si può chiedere, sì, se sia nei termini, la restituzione del c'era valore un ascoltatore all'INPS. Che si lamentava che sono arrivate queste somme da restituire dopo oltre due anni dalla richiesta. Vabbè, l'importante è che siano arrivati. Sentirei Luciano da Verona, perché aspetta da tantissimo dalla prima parte della trasmissione. Luciano, eccomi, benvenuto. Qua. Buongiorno a tutti e ben risentite. Grazie. Volevo fare questa domanda al vostro super esperto. Io ho già un lavoro, 8 ore in regola. Posso al di fuori del mio lavoro ricevere i voucher? Vuole fare un secondo lavoretto, Luciano? Insomma, qua integriamo un po' il reddito, perché molte famiglie ne hanno bisogno, si attrezzano come possono. Rotaporta, effettivamente, potrebbe grazie essere... per il super, ma esperto, cioè, più che sufficiente, anzi, è abbondante. No, lo può fare, se lo può fare tranquillamente, quindi non è incompatibile con... In quel caso però poi si incrocia con la dichiarazione dei redditi... No, perché i voucher fanno... non hanno nessun riflesso sulla situazione reddituale, quindi lui, anche se titolare già di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, può che ne so, magari andando a fare il classico servizio presso il ristorante il sabato e la domenica, essere remunerato con i voucher senza nessun problema. L'importante è che non superi la retribuzione lorda annuale di 7.000 euro? Nell'anno civile? No, è netta, la retribuzione è netta. Ecco qua. Così hai risposto almeno a 7-8 domande che sono arrivate, vedi, subito al 3492386666. Come si anche suol per dire i vostri, il vedi? Piccione, qua, quanti piccioni con una fava? Un numero anche per il WhatsApp. Per WhatsApp. Voglio leggervi il messaggio di Carlo da Roma. Andiamo, solo perché si chiama Carlo, so che tu l'hai scelto. Allora, infatti, io l'ho scelto solo per quello, ma soprattutto perché sua moglie, dopo 25 anni come dipendente di piccola ditta, è stata licenziata e da un paio di giorni a casa ha presentato domanda per assegno di disoccupazione, 24 mesi a scalare. Allora, qualora dovesse trovare qualche lavoretto, quanti voucher sono consentiti all'anno per mantenere l'assegno di disoccupazione? Qui torniamo a nel messaggio un po' prima, tecnico, da cui lei faceva riferimento, ma... Sì, praticamente c'è un limite che è inferiore per i percettori di prestazioni, che quindi sono 3.000 euro, quindi potrà ricorrere nel massimo di 3.000 euro. Velocemente Nicandro da Caserta in diretta all'800 24 00 24 ci dà l'opportunità di ribadire un po' quella rosa di settori in cui i voucher, i buoni lavoro sono utilizzabili o meno. Nicandro, benvenuto. Sì, buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io opero nel settore dell'edilizia e abbiamo difficoltà perché l'ispettorato del lavoro non accetta l'utilizzo dei voucher. Sì. E volevo sapere se questo qua è giusto o se c'è qualche errore di interpretazione. Nicandro, grazie. Rotaporta. Ma allora il settore, cioè, quindi la domanda è specifica, ma la risposta anche allora ce l'ha dalla norma, nel senso che col codice dei contratti i voucher per divieto di normativo non possono essere utilizzati nell'ambito degli appalti, quindi se l'attività edile è riferita a lavori in appalto l'utilizzo dei voucher è escluso. Teniamo in considerazione che in quei settori lì, ma un po' in genere, salvo i committenti privati, anche l'utilizzo dei lavoratori con i voucher deve sottostare al rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, quindi anche un altro aspetto da tenere in considerazione. Ci sono settori che hanno effettivamente una condizione un po' delicata. L'ultima domanda, un ascoltatore ci scrive: sono amministratore del mio piccolo condominio, posso pagare mia moglie che fa i lavori di pulizia delle scale con i voucher, con i buoni, rotaporta? Beh, in questo caso è il condominio, che quindi non è l'amministratore, il committente, sarà il condominio. La risposta è sì, non c'è una preclusione. Probabilmente sono proprio queste le situazioni tipiche che possono essere remunerate con il buono lavoro. Ma sì, perché poi quando c'è, anche se la prestazione è esigua, ma quando questa prestazione è continuativa, un po' anche per i vincoli che abbiamo detto prima, no? Quindi attivazione, periodi di 30 giorni, poi a quel punto lì diventa più agevole gestirla con un rapporto di lavoro. Senta, ma come contante come funziona? Nel senso, l'ultima domanda e poi lo lasciamo andare. Allora, infatti, io faccio un lavoro... Come si riscuotono? Esatto, stanno scrivendo. Nicoletta mi paga con due voucher perché stamattina le ho dato una pulita alla scrivania. No? Allora, c'è molto da fare. Lei ha comprato a questo blocchetto due voucher da 10 euro perché ci ho impiegato un po', il mio netto che mi arriverà in tasca è di 7,50 euro, ma ci posso andare a fare la spesa esattamente come buoni pasto poi? Rotta porta, ogni voucher intanto vale un'ora di prestazione lavorativa, quindi per gestirli correttamente bisogna corrispondere un voucher per ogni ora. Per incassarli decorsi due giorni dalla fine del periodo di prestazione che è stato segnalato dal committente, il prestatore può andare con quello cartaceo direttamente in tabaccheria o presso l'ufficio postale, quindi se sono state acquistate le poste, a incassare l'importo. Se invece sono stati acquistati in modalità telematica, come dicevamo prima, allora al prestatore sarà arrivata a casa una tesserina tipo una carta di credito e con quella può andare all'ufficio postale e gli vengono dati proprio fisicamente i soldi corrispondenti all'importo. C'è un'altra domanda, come deduco fiscalmente l'importo dei buoni che acquisto? Mi rilasciano ricevuta? No, lì bisogna consegnare ovviamente a chi predispone la dichiarazione dei redditi le matrici dei tagliandi, dei buoni, e poi quindi si faranno poi i conteggi relativi a quanti buoni sono stati erogati. Allora, per tutte le altre domande scriveteci, perché Alessandro Rottaporta, come sempre, essendo un consulente del lavoro, lo è anche nei nostri confronti e quindi ci aiuterà a chiarire tutti i dubbi che vi sono rimasti. Saranno probabilmente tanti, perché ovviamente il tempo è quello che potevamo affrontare. Comunque gli aspetti principali di questo argomento. Grazie ad Alessandro Rottaporta, ben ritrovato, ci risentiamo presto. Grazie a tutti. Grazie. Buona giornata. Facciamo una cantatina adesso. Facciamo una cantatina che ci riporta da quando eravamo bambini. L'uguaglianza, Deborah, il tema della 58esima edizione dello Zecchino d'Oro è un tema molto vicino alle emozioni che ognuno di noi ha vissuto in questi giorni dopo i fatti tragici di Parigi, ma non solo. Ma parlare di Zecchino d'Oro vuol dire anche tornare in contatto col bambino che c'è in ognuno di noi. Del resto abbiamo tutti, no, una canzone dello Zecchino d'Oro del cuore. Qual è la vostra? 44. Allora, Gatto Puzzolone mi ha subito suggerito Carmelo Lauricella, perché dimmi che Zecchino d'Oro, no, porti nel cuore, ti dirò più o meno che anni hai. Popoff. Ecco, io sono per i 44 gatti, chissà qual è la canzone che Alberto Pellai, che ci ha raggiunto, ciao Alberto, porta nel cuore. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, ciao Deborah. Ciao, buongiorno. Qual è la tua... La mia canzone preferita è la Ciri Viricoccolo, è una canzone dedicata alla rabbia. Alla rabbia, già da piccolo, vedi, avevi una inclinazione ad occuparti delle emozioni. Esatto, se mi gira la Ciri Viricoccola e poi faceva un elenco di disastri che questo bambino combinava quando gli arrivava il momento della Ciri Viricoccola. Allora, 800 24 00 24, come avrete capito faremo un viaggio nei ricordi per riprendere contatto con il bambino che siamo stati, aiuta sempre e in momenti come questo aiuta in modo particolare. Chiamateci per raccontarci qual è il ricordo della vostra infanzia legato a musica, libri, cartoni, giochi che è ancora con voi, che lo portate ancora con voi nonostante l'età adulta, insomma qual è quel piccolo pezzetto della vostra infanzia che avete ancora nel cuore e che anche oggi vi apre un mondo quando ci ripensate o per caso vi imbattete. Alberto, ci sono aspetti della nostra vita passata che rimangono con noi per sempre, uno di questi è sicuramente la musica. Sì, diciamo che i nostri ricordi di infanzia sono un po' le fondamenta poi del nostro percorso di vita e dentro a quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo ascoltato, quello che abbiamo giocato, che noi abbiamo costruito le competenze, poi anche un po' le basi della nostra identità, e noi ogni giorno ci portiamo dietro con noi il bambino che siamo stati, che è un bambino che se è stato amato, confortato, curato, accudito bene, probabilmente ci farà stare molto bene anche nel qui ed ora. Se invece un bambino che ha avuto qualche problema, che ha vissuto qualche disagio, a volte si fa sentire e può mandare in blackout il nostro qui ed ora, la nostra quotidianità anche nella vita adulta. Alberto, è probabilmente questo, no? Un po' il successo dello Zecchino d'Oro, un successo che non ha tempo e non ha età, l'abbiamo detto in apertura, parla ai bambini, ma rappresenta un'occasione per gli adulti, per i genitori, di parlare, no? Ai loro bambini, di affrontare dei temi che magari in altro modo sono più difficili da affrontare, discutere, con cui, su cui confrontarsi. Alberto, quindi... Ma io lo dico proprio da ascoltatore e chiaramente anche d'autore poi per bambini, di libri per bambini e di canzoni per bambini, credo che davvero la ricchezza di del campionario delle canzoni dello Zecchino sia questa. Da una parte c'è la formula della filastrocca, la storia divertente, la ninna nanna, cioè buoni testi con ottime musiche che possono fare d'accompagnamento a momenti di svago della vita. Dall'altra parte c'è tutta invece una collezione canzoni con messaggi molto alti e molto profondi, e quindi diventano dei veri e propri testo canzone che sono di fatto molto usati anche a scuola in progetti di prevenzione, in progetti di educazione emotiva, e permettono nel tempo brevissimo di una canzone, quindi in circa 3 minuti, di dire cose molto molto importanti con un codice che è allo stesso tempo musicale ma anche semantico, cioè pieno di significati, che quindi si imprime sia nella nostra intelligenza emotiva sia proprio nella parte più alta. Alberto, abbiamo deciso oggi di parlare dello Zecchino d'Oro che proprio perché quest'anno, l'edizione di quest'anno, vuole celebrare tutti i colori dell'uguaglianza. Abbiamo anche così coinvolto i nostri ascoltatori chiedendo di segnalarci la canzone dello Zecchino d'Oro che portano nel cuore. Naturalmente va forte il Gatto Nero, il Caffè della Peppina, 44 gatti, Popoff, la tua... Certo, no? Popoff, ho visto che praticamente è stata portata allo Zecchino d'Oro 2 anni prima che io nascessi. Sì, per cui evidente, non so per quale, adesso ci hanno avuto, hanno avuto un successo straordinario. Prima di dare la linea ai mercati, certo, che, hanno che non poco... sono tanto canterini, insomma, Alberto, dai una convocazione ai nostri ascoltatori, perché sanno che quando tu entri in trasmissione c'è sempre un lavoro, no? Che tu ci inviti a fare su noi stessi, anche recuperare il bambino che è in noi è sicuramente un'operazione che ci permette di mantenere in equilibrio. Non a caso ne parliamo oggi, perché i fatti di Parigi hanno destabilizzato tutti noi, e quindi noi, attraverso una strada che è quella dello Zecchino d'Oro, che è una manifestazione per i bambini, vogliamo arrivare anche agli adulti e con un messaggio, no? Di continuare a coltivare il bambino che c'è in noi per lavorare sulla solidarietà, sull'apertura. Alberto. Sì, da una parte direi come invito provare a reimmaginare un'immagine di se stessi bambini, anche magari prendendo una foto e guardando quell'immagine adesso da adulti, quali sono i 2 aggettivi che abbinerebbero alla loro fotografia, che è un po' il modo con cui hanno messo dentro il bambino, dentro di loro il bambino che sono stati. Dall'altra proprio inviterei gli adulti invece a immaginare qual è il messaggio che vorrebbero dare a un bambino di oggi, in quanto adulti, in quanto autorevoli, in quanto competenti, proprio per non essere travolti, un po' come dicevate anche voi 2 giorni fa in trasmissione, da un senso invece di depressione e non speranza verso il futuro, verso il domani. A volte i genitori danno a dei figli degli esempi proprio terribili. Mi riferisco alla rissa che c'è stata tra genitori per una squadra, no, di pulcini che si affrontavano in un campo da calcio vicino a Novara, e finito a botte tra i genitori. Ecco, noi stiamo parlando di solidarietà, di coltivare il bambino che c'è in noi, di pace, e poi i genitori si picchiano per un gol dei loro figli. Ci riflettiamo naturalmente anche con Alberto Pellai, quindi dallo Zecchino al campo di calcio. Adesso però andiamo a sentire che cosa succede, no? Andiamo velocemente, tra poco. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Uliveto. Ti aiuta a digerire. Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. La puntata di Cuore Denari di oggi prende spunto dallo Zecchino d'Oro, che ha fatto il suo debutto proprio ieri sera, una manifestazione per bambini che da quasi 60 anni, più o meno sì, ci siamo, diffonde benissimo, dei valori anche nel mondo dei grandi, aiuta le famiglie a parlare con i propri figli di integrazione, intercultura, di pace, di solidarietà. E proprio come ricordavamo, l'edizione di quest'anno è intitolata un tema che a me, a Deborah e anche ad Alberto, che è in linea con noi, Alberto Pellai, è sembrato bellissimo, molto vicino alle emozioni che ci hanno travolti in questi giorni, perché quest'anno lo Zecchino d'Oro vuole celebrare tutti i colori dell'uguaglianza. Ne stiamo parlando con Alberto Pellai, con cui cerchiamo, no, di fare un'operazione che aiuta, ci aiuta sempre, e che è quella di tenere in vita il bambino che c'è in noi, perché è così importante, molto importante per il nostro equilibrio psicologico. Alberto, il bambino che siamo stati è quello che del bambino resta di noi, ci aiuta a riprendere un po' contatto con noi stessi, anche a essere, se siamo dei genitori che riescono a, no, farsi bambini e quindi a trasferire anche dei valori ai loro figli. Sì, è proprio così, e moltissime volte nel nostro ruolo di genitori noi effettivamente ci comportiamo con i nostri figli in due modi diversi, che sono fortemente dipendenti dal bambino che siamo stati. Cioè, tante volte, se siamo stati trattati molto bene, abbiamo dentro di noi una memoria bella di quando eravamo bambini e facciamo lo stesso con i nostri figli. Se siamo stati trattati invece un po' male, siamo stati magari curati poco, eccetera, ai nostri figli diamo o l'esatto contrario di quello che non abbiamo avuto, quindi di nuovo diventiamo genitori molto competenti, o a volte entra un po' in blackout tutto il sistema e ci troviamo a fare con i nostri figli quello che è stato fatto con noi. E nonostante abbiamo detto tutta la vita "io questa cosa non la dirò mai e non la farò mai con mio figlio", ci ritroviamo invece in alcune situazioni lì, alla casella del via, un po' il punto di partenza, e dopo magari... Ecco, questa tua lettura, Alberto, ci permette così di trovare una risposta, di giustificare o di trovare un po' la ragione di alcuni comportamenti che rimangono un po' inspiegabili. Quindi 800 24 00 24, per parlarne con noi a proposito di bambino che c'è in noi. Tu, Alberto, ne sai qualcosa, perché con il bambino che c'è in te anche tu sei uno degli autori protagonisti dello Zecchino d'Oro di quest'anno, perché una tua canzone è tra le 12 finaliste in gara in questa settimana. È proprio così, guarda, è una soddisfazione enorme, perché forse le persone non lo sanno, ma ogni anno arrivano circa 500 canzoni che concorrono per essere selezionate. Di queste 500, alla fine, dopo varie selezioni, ne rimangono 12. Essere in quelle 12 è un grande privilegio e una grande soddisfazione, naturalmente. Mai pensato di partecipare allo Zecchino d'Oro? Chissà se tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno. Io ho l'immagine davanti a me dei miei nipotini, che naturalmente lo staranno guardando in questi giorni, in particolar modo della seconda, che so che si emoziona su queste cose. Lei, quando sente una canzone con del contenuto un po' emotivamente parlando impegnativo, dice subito "mi viene da piangere da queste cose che sento", ha una sensibilità carina, molto accentuata, sì. Allora, il Topo Zorro è la canzone preferita di un ascoltatore che non si firma. Qualcuno, dice Anna Maria, si ricorda di Carissimo Pinocchio, Tre Corsari, bellissima, suggerisce Mariano. Chissà sì, se riusciamo a fare al termine di questa puntata delle canzoni dello Zecchino preferite dai nostri ascoltatori. Il Topo Zorro va forte. Alberto, ti abbiamo ripescato. Eccomi qua, sì. E è bello, secondo me, anche vedere che ogni ascoltatore ha proprio il suo ricordo nel cuore, cioè questo legato a una canzone dello Zecchino. Questo dice esattamente quello che un po' sottolineavamo prima, la potenza di un brano di 3 minuti che nasconde in una sintesi di parole e musiche un intero mondo, un mondo di fantasia, oppure un mondo di realtà, oppure un valore che rimane con noi tutta la vita. Allora, continuate a scriverci o a chiamare il nostro numero verde per raccontarci e dirci la canzone che di quando eravate bambini, che non avete più dimenticato, ma anche, perché no, il libro, il cartone o il gioco. C'è una differenza, Alberto, in termini di memoria emotiva tra una canzone e un gioco, tra un libro e un cartone? Usano proprio mappe neuronali diverse nella nostra mente, in generale cercano di integrare aspetti emotivi con aspetti cognitivi, ma mentre nel gioco per esempio sei molto attivo e quindi costruisci poi le tue immagini mentali facendo e giocando, nel libro e passa prima dalla parte più alta, quella cognitiva, cioè leggi delle parole, devi costruire dei significati e a quel punto magari quei significati ti emozionano. In generale poi il risultato è che però se qualcosa resta forte e potente dentro di noi è proprio come un tatuaggio che ci accompagna per tutta la vita. Voglio leggervi anche il suggerimento di Matteo, che dice di tanto in tanto pensiamo anche ai sapori di quell'infanzia e riproponiamoceli: la cotoletta, la crostata di mele, la mela grattugiata come ce la preparava la nonna. Prepariamole noi al piccolo noi che c'è in noi, diciamogli che non lo abbiamo nascosto, che lo abbiamo compreso e che siamo pronti ad amarlo e coccolarlo come amato e coccolato si è sentita almeno una volta nella vita. Sapori e profumi e consistenze aiutano. Ai però. Mi piace, che Matteo. Che bella riflessione. Alberto. Beh, Matteo è veramente esperto del bambino che c'è in lui e ci ha dato proprio poi un segreto reale, cioè avere accesso al bambino che siamo stati significa poi passare dal canale della multisensorialità, quindi profumi, sapori, odori, immagini, tutto questo è proprio una porta d'accesso che ci permette di tornare là dove siamo stati. Alberto, voglio leggerti anche un messaggio, te lo sintetizzo, di un ascoltatore che dice: ma non c'è il rischio, no, di in questo cercare di continuare a coltivare e recuperare il bambino che c'è in noi, di rimanere eternamente bambini, addirittura afflitti da quella che viene definita la sindrome di Peter Pan? Io credo di no. Possiamo stare tranquilli, guarda, o no? La sindrome di Peter Pan è un po' l'esatto contrario, cioè qualcuno che non è mai riuscito a diventare adulto e quindi resta costantemente bambino, mentre quando parliamo di recuperare il bambino che c'è stato in noi, il problema è esattamente l'opposto, cioè esserci trovati adulti senza quasi più ricordarci del bambino che siamo stati e quindi stare in una zona della vita magari molto adulta, molto astratta, molto operativa, molto concreta, senza però fare tesoro proprio del nostro mondo emotivo, del nostro mondo di ricordi. Quindi è un'altra cosa: chi ha la sindrome di Peter Pan in realtà resta sempre bambino, chi si dimentica il bambino che è stato a volte è davvero un po' troppo adulto. Allora, io volevo continuare a ricordarvi un po', a leggervi i vostri messaggi che stanno arrivando anche su WhatsApp. Esatto. Il valzer del moscerino non vogliamo l'abbiamo ancora citato, no? Cantava la Cristina D'Avena, se non mi ricordo male, forse ha anche vinto qualche festival. Alberto, mi affido a te per questo ricordo. Ecco, ci siamo ricordate bene. Bene, benissimo. E Torero Camomillo? Non lo conosco. Il Torero Camomillo, sì. Te la ricordi tu? Mi pare di sì. Daniela da Modena segnala Gugu. Io questa proprio invece non ne ho idea, ma insomma sono tante. Peraltro quanti bambini si esibiscono ad ogni manifestazione, poi quando veramente si fanno portavoce di certi messaggi che sono contenuti nelle loro canzoni, la tenerezza nei confronti di questi piccoli si amplifica a mille, no Alberto? Sì, credo che poi è proprio questa anche la sintesi del programma televisivo, cioè ti fa proprio vedere un bambino che incarna un messaggio che arriva direttamente al cuore, quindi stimola una straordinaria tenerezza. Ricordiamo anche Maria Leventre? La vogliamo ricordare, la grandissima, come la possiamo definire peraltro? Si prendeva cura dei bambini, quindi mi viene del coro, sì, esatto, la maestra del coro, direttrice del coro dell'Antoniano, che ha avuto questo compito così importante per tanto tempo. Allora, che facciamo adesso? Io direi che adesso, come fa segno Carmelo, mani sul volante, allora lampadina, forse è arrivato il momento di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. A tra poco. Cuo- cuore e denari. Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita. Non era dello Zecchino d'Oro la partita di pallone, era di Rita, della grande sì, Rita. Sì, sì, Rita Pavone. Perché la stiamo sentendo, perché proprio negli ultimi minuti di chiusura parleremo, affronteremo anche rapidamente, anche se avremo poi occasione magari di dedicare, di tornarci su questo aspetto e dedicare una puntata, perché vorremmo parlare e commentare con Alberto la rissa tra i genitori di bambini pulcini di Juve e Toro che si sfidavano nella finale del torneo e i genitori se le sono date di santa ragione. A proposito di esempio, ma rimaniamo ancora sul palco dello Zecchino con Alberto Pellai, che ha partecipato, no? Che è uno dei 12 finalisti. Alberto, possiamo dirlo, raccontarti esatto. Così? Sì, non io, la non canterai per... naturalmente, ma... perché, però tu potresti intonarcelo, no? Ti vuoi cimentare un attimo, Alberto? No, dai. No, perché io sono solo l'autore del testo, tra l'altro la musica è scritta da Giovanni Paolo Fontana e Roberto De Luca, quindi io sono solo una parte di questa canzone. Una parte, perché è un lavoro d'equipe. Andiamo? Esatto. Ah, andiamo da Giuseppe da Cosenza, che vuole condividere con noi una bellissima considerazione. Giuseppe, ben trovato a Cuore Denari. Eccoci. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Giuseppe. Io ho vissuto la mia terza infanzia. Che fortuna! È musicale da questo punto di vista, perché questa mia ultima generazione, che è mia figlia, che adesso è un po' più grandicella, voglio dire, ha 10 anni, però abbiamo vissuto in macchina, allo Zecchino, specialmente in macchina, e al semaforo da scemi a cantare tutta la famiglia. Va bello, che però, cantate! Però, la persona che era di fianco in una macchina da solo, che è un evento simpatico, ha abbassato i finestrini e si è messo a cantare con noi. È contagioso, vero? Questo è il semaforo più divertente di Cosenza. Bello. Da rivivere ben volentieri. Quindi fatevi una bella cantata al semaforo. Bravo Giuseppe. Con tutta la famiglia, come Giuseppe. Dalla vecchissima canzone dello Zecchino alla penultima, perché l'ultima magari lavorando non le seguiamo le ultime, però poi il CD lo si acquista e rimane lì nella bacheca, bello da risentire. Grazie Giuseppe per essere intervenuto a Cuore Denari, e diamo il benvenuto anche a Christel Carrisi. Ciao Christel. Ciao ragazze, ciao. Allora, oggi tu, cioè, sei al lavoro, perché sei la voce, no? La rappresentatrice dello Zecchino d'Oro. Esatto, sono proprio qui in sala riunioni con gli autori e con Flavio. Senti, che emozione grande. Guarda, ieri mi sentivo, hai presente il primo giorno di scuola, però scuola è questo luogo enorme, pieno di spettatori e milioni di spettatori da casa, quindi era questa la sensazione che avevo. Christel, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori di segnalarci la canzone del loro Zecchino d'Oro, naturalmente anche tu ne porterai una nel cuore. Sì, io quella della mia generazione era Cadere il cammello, quella che mi ricorda di più e che vedi, mi sono accompagnato. Si vedono, vedi, perché Christel è di altri anni. Abisso anagrafico tra noi e te. Vabbè, però insomma adesso la dobbiamo ripescare, perché non me la ricordo, quindi vado è subito. È carinissima, davvero carina. Ce la vuoi cantare? Ecco, qua, subito, pronta, detto fatto noi. Sì, adesso me la sono ricordata. Sì, stiamo bluffando, ma Christel, allora, sì, in bocca al lupo per questa tua avventura televisiva. Ecco, che naturalmente ti farà ritornare bambina, perché anche è quello. Noi siamo con te, Christel, grazie per essere... Grazie a voi. Tutti quei piccolini per noi. Sì, dai. Sì. Grazie Christel Carrisi. Grazie a te. Flavio? Guarda, noi siamo quasi in chiusura, bacialo da parte nostra, Flavio. Ciao, sono Flavio, ti mando un bacio. Grazie Christel. Okay. Alberto. E io l'ho vista ieri, tra l'altro ero lì a Bologna ed effettivamente è stata una prima prova anche per lei, ma erano molto molto disinvolti. A me è piaciuto per esempio poi a molto Flavio, perché si metteva davvero in ginocchio, guardava i bambini negli occhi alla loro altezza, dava proprio la dimostrazione di che cosa significa essere un adulto che sa stare ad altezza di bambino. Come faceva il mago Zurli? Ciro Tortorella. Era proprio, secondo me, proprio un messaggio che arriva forte e potente. Alberto, allora, un minuto e mezzo per commentare i fatti del campo di Borgomanero, provincia di Novara. Se, i genitori se li sono dati di santa ragione. Ma io direi proprio agli adulti: a che cosa serviamo quando nel mondo dei nostri figli portiamo il peggio del mondo degli adulti e in una zona della loro vita dove dovrebbe esserci divertimento, spirito di squadra, cooperazione, solidarietà, quello che noi facciamo è proprio portare il mondo invece dell'agonismo sfrenato, della competizione e poi lo stesso magari linguaggio della guerra. E c'è davvero tanta contraddizione, perché magari usiamo parole alte per commentare i fatti di Parigi e poi le nostre piccole Parigi a volte sono proprio i campi di calcio dove giocano i nostri figli, dove gli adulti dovrebbero dimostrare che ciò che davvero ci interessa è che loro crescano con dei valori che permetteranno al mondo un futuro migliore, non quella roba lì che abbiamo visto e letto sui giornali. Alberto, grazie per essere stato con noi, come sempre, per averci dato una mano, no? Certo. A riflettere su dimensioni emotive. E ci sentiamo grazie presto. Faremo il tifo per lui in questi giorni. Sì, impareremo. Ci ribadisci il titolo? Il titolo? Le impronte del cuore. Come poteva, guarda, già il titolo la racconta, noi la impareremo a memoria e te la canteremo la prima volta che verrai qua in studio a Cuore Denari. Preparati. Allora, così non viene. Eccolo qua. Grazie Alberto, grazie, buona Alberto. Giornata. Bene, noi abbiamo terminato anche oggi Cuore Denari, ritorniamo sì. domani. Io domani vi anticipo che non ci sarò, ma venerdì ritorno e poi non vado più via. Questa settimana, mi raccomando, te ne sei approfittata. Sì, vi ho lasciato per due mattine. A presto, a domani, buona giornata a tutti.